Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. È stata un'emorragia cerebrale a uccidere il piccolo Mattia in vacanza a Marsalam. L'autopsia fatta a Udine smentisce l'ospedale egiziano. Carcere di San Vito, visita dei ministri Nordio e Ciriani alla struttura da 300 posti, chiamata a rispondere al problema del sovraffollamento. Competenza, comunità, futuro, le parole d'ordine della candidatura del Dem Diego Moretti per la corsa di aprile al municipio di Monfalcone. In Friuli Venezia Giulia il debito fiscale è di 11.125 euro pro capite, in Italia solo il Trentino Alto Adige dimostra maggiore fedeltà fiscale. Prima davanti al comune di Gorizia, poi di fronte all'ospedale, presidio del coordinamento salute pubblica per il futuro della cardiologia. Calcio, l'Udinese torna con 3 punti da Lecce, Lucca contro tutti per calciare il rigore, Rugnaic non ha rispettato la gerarchia, ne parleremo. 12:31 minuti, buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli. È netto il responso dell'autopsia eseguita per il decesso di Mattia Cossettini. Autopsia eseguita a Udine. Mattia Cossettini, 9 anni, residente a Tricesimo, era scomparso lo scorso gennaio in Egitto, nella località sul Mar Rosso di Marsa Alam, mentre era in vacanza con la famiglia. L'esame svolto dall'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale indica infatti come causa di morte un'emorragia da ricondurre ad un aneurisma cerebrale ed esclude in modo netto la presenza di altre patologie concomitanti. Un responso quindi lontano dalla nota diffusa dalla direzione delle questioni sanitarie del Mar Rosso, in cui si riportavano le complicazioni di un tumore cerebrale e un'infezione da polmonite batterica come cause del decesso. Le analisi dopo lo svenimento improvviso al termine di una gita in barca e un primo soccorso nel punto sanitario del resort in cui alloggiava la famiglia erano state svolte nell'ospedale governativo locale. La famiglia del piccolo da subito aveva espresso perplessità per il referto egiziano, innanzitutto perché Mattia non aveva mai manifestato alcun sintomo e poi per la mancanza di attrezzature ospedaliere limitate alla tomografia computerizzata e a cui erano seguite semplici ipotesi estese dal diabete alla broncopolmonite. Al momento la famiglia sta valutando gli aspetti relativi all'incidenza di una corretta e tempestiva diagnosi, ma nel frattempo si è già spesa per sensibilizzare il governo egiziano allo sviluppo di protocolli nelle emergenze sanitarie nella zona del Mar Rosso, in cui l'ospedale attrezzato più vicino dista 3 ore di auto. Ogni anno in Egitto fanno vacanza 15 milioni di italiani, di cui un terzo nell'area del Mar Rosso. Cambiamo argomento, sopralluogo con i ministri Nordio e Ciriani questa mattina al nuovo carcere di San Vito, opera da 60 milioni che sarà pronta entro il prossimo anno. 2 ministri alla giustizia, Nordio, e ai rapporti con il Parlamento Ciriani, la viceministra all'ambiente Gava, regione, sindaci e autorità al sopralluogo al grande cantiere per la realizzazione del nuovo carcere di San Vito al Tagliamento nei 50.000 metri quadri dell'ex caserma d'allarmi, opera da 60 milioni di euro e 300 posti. Il ministro alla giustizia Carlo Nordio. Auspico che sia una sorta di progetto pilota che venga emulato nel paese, in altre regioni. Il Friuli per questo ha un po' una caratteristica di privilegio perché dispone di molte caserme dismesse. All'Auditorium Zotti la presentazione del penitenziario alla comunità con il videomessaggio del ministro delle infrastrutture Salvini. Il padiglione detentivo da 5 piani con 33 camere triple e 2 doppie per detenuti con disabilità sarà adeguato ai più moderni standard. Nel complesso ci lavoreranno 300 persone. Luca Ceriani, ministro per i rapporti con il Parlamento. Lavoreranno molte imprese locali in questo cantiere e soprattutto è una risposta al problema del sovraffollamento per avere carceri insieme più dignitose e anche più sicure. I lavori sono iniziati a novembre con la pulizia della vegetazione, la caserma è dismessa da oltre 30 anni e le demolizioni dei vecchi fabbricati, qui seguirà la bonifica bellica, per poi entro marzo partire con la costruzione che sarà ultimata, da previsioni della ditta, già a metà 2026. Il sindaco di San Vito al Tagliamento, Alberto Bernava. Un'infrastruttura struttura che non rappresenta solo un grande recupero di rigenerazione urbana, ma un modello di detenzione e di reintegro sociale, di integrazione sociale, secondo i più alti e innovativi modelli di inclusione. San Vito al Tagliamento, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Passiamo alla politica. Monfalcone, poco fa si è tenuta la presentazione del candidato alla guida della città per il centro-sinistra, Diego Moretti. Il voto è in calendario il 13 e 14 aprile. Competenza, comunità e futuro sono le tre parole su cui punta la campagna elettorale il candidato del centrosinistra a sindaco di Monfalcone, il consigliere regionale del Partito Democratico Diego Moretti, in vista della sfida del 13 e 14 aprile. Oggi Moretti ha presentato di fronte a una sala piena del Kinemax di Monfalcone quella che definisce un'avventura per riprendersi la città dopo 9 anni di centrodestra. Il rapporto con Fincantieri è la priorità per Moretti, azienda che deve porsi il problema del suo impatto sul territorio, in particolare con la pratica del subappalto, che Moretti definisce inaccettabile. Monfalcone, vista dunque come città industriale da Moretti, ma che deve offrire lavoro qualificato. Ricostituire il tessuto sociale della città e difendere la sanità pubblica sul territorio, le altre priorità di Moretti. Insieme a lui sul palco intervengono i rappresentanti delle 4 liste che lo sostengono. Il Partito Democratico, la lista Insieme con Moretti, Monfalcone Civica e Solidale, che raggruppa anche alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, e i Progressisti per Monfalcone. Ad unirle anche l'antifascismo e la volontà di rendere attrattiva Monfalcone contro la fuga dei giovani, oltre al tema dell'integrazione sociale necessaria. Centrale anche il problema dell'amianto, una ferita aperta per la città. Sul palco del Kinemax interviene anche il consigliere regionale del Patto per l'Autonomia Civica FVG, Enrico Boulian, che si era proposto come candidato del centrosinistra per poi fare un passo indietro. Parla anche Mauro Benvenuto, sindaco di Ronchi dei Legionari, in rappresentanza dei sindaci del mandamento, con cui Moretti afferma di voler condividere ogni passo. Monfalcone, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. A Udine invece l'incontro con Giusy Versace, senatrice di Noi Moderati, per parlare di disabilità e integrazione. L'inclusione e la disabilità attraverso lo sport è una testimonianza di coraggio, resistenza e determinazione. È quella della senatrice Giusy Versace, intervenuta a Udine a un convegno organizzato da Noi Moderati, area politica a cui anche lei fa riferimento. Dopo aver perso le gambe in un incidente stradale, Giusy Versace è diventata la prima atleta donna italiana a correre con 2 protesi. Detiene 11 titoli, ha partecipato a campionati mondiali ed europei e a 39 anni ha fatto le Olimpiadi, come dice lei, tenendo testa alle ventenni. Ma anche partecipato e vinto Ballando con le Stelle, presentato programmi in televisione. E poi c'è la politica, con le battaglie che fa per responsabilità e un incontro che è anche una testimonianza. Si parla tanto di inclusione, dice, ma pochi hanno chiaro come attuarla. Ho compreso che molto è stato fatto, ma tanto resta ancora da fare. Lo sport è uno strumento preziosissimo, dice, perché offre l'opportunità di alzare l'asticella e di mettersi alla prova con se stessi e consente alle persone di guardarci per quello che riusciamo a fare e non per quello che ci manca. Versace parla a tutto campo, dei problemi dei disabili alle lentezze della politica nel dare risposte, ma anche di cose personali, dell'incidente e della sua reazione. Un momento anche toccante. Vivere è un allenamento costante, dice, per tutti. Ogni giorno bisogna impegnarsi a tirar fuori qualcosa di buono. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Coordinamento Salute Pubblica di Gorizia ha organizzato per questa mattina un presidio a difesa del futuro della cardiologia esontina, prima davanti al municipio di Gorizia e poi di fronte all'ospedale. Sentiamo Adelino Adami del Coordinamento. Sono tornati indietro. Quando una causa è giusta ed è portata avanti in maniera democratica e civile e soprattutto è portata avanti da tutta una città e dal territorio che la circonda, si può arrivare al risultato. Da Adelino Adami soddisfazione per questa prima vittoria, ma senza abbassare la guardia per il Coordinamento Salute Pubblica di Gorizia, che si è ritrovato per un presidio e un flash mob dopo che la giunta regionale ha deliberato che la presenza della cardiologia verrà garantita sia all'interno dell'ospedale di Monfalcone sia in quello di Gorizia. Inoltre, entro la fine dell'anno Asugi individuerà il luogo dell'Isontino in cui troverà sede l'unità di terapia intensiva cardiologica. Riconosciamo all'assessore regionale la grande onestà morale di aver detto che c'è stato un errore e quindi di aver modificato la delibera, però nello stesso tempo secondo noi rimane una domanda inevasa. perché 3 mesi fa si era pronti a trasferire tutto a Monfalcone e adesso per fare una scelta si chiede un anno di tempo ad Asusi. Perché queste valutazioni non sono state fatte prima di quella delibera? Il coordinamento auspica che le valutazioni che Asugi sarà chiamata a fare siano assolutamente trasparenti, ma pone l'accento anche su altri temi. Fra questi, i 5.000 cittadini senza medico di base, nonostante i 53 milioni di euro investiti nella sanità goriziana, e anche le conseguenze di questa carenza sulla prevenzione oncologica e la diagnosi precoce. Gorizia, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. In Italia solo il Trentino Alto Adige ha una fedeltà fiscale superiore a quella del Friuli Venezia Giulia, lo dice la CGA di Mestre, che elaborando dati, il Sole 24 Ore e Agenzia delle Entrate rileva come in regione i mancati pagamenti fiscali ammontano tra il 2000 e il 2024 a 13,3 miliardi di euro. In valore assoluto la Lombardia con quasi 256 miliardi, Lazio con 227, la Campania con 152 miliardi e mezzo sono le regioni che presentano uno stock di debiti fiscali più elevato. In base al valore pro capite emerge in prima posizione però il Lazio con oltre 39.600 euro di tasse non riscosse. Seguono la Campania con oltre 27.000 e la Lombardia con quasi 26.000. Il Friuli Venezia Giulia occupa il penultimo posto in Italia con un importo di 11.125 euro. Solo il Trentino Alto Adige presenta un livello di fedeltà fiscale superiore con 6.964 euro. Via libera dal Ministero dell'Ambiente al piano di barriere fonoassorbenti di Autostrade Alto Adriatico, che ha pianificato un investimento da oltre 27 milioni di euro con fondi propri. Saranno 19 gli interventi lungo la rete autostradale in 12 comuni, per l'autostrada 4 Fogliano Dore di Puglia, Ronchi dei Legionari, Villesse, per la A23 Gonarse, Pavia di Udine, per la A28 Azzano Decimo, Fiume Veneto, Chions, Gruaro, Pordenone, Porcia e Sacile. Scartata l'opportunità di integrare le barriere acustiche con pannelli fotovoltaici, la società ha preferito investire in questa tecnologia con un parco fotovoltaico lungo la rete, avviando l'iter per uno studio di fattibilità. Il progetto verrà inviato al Ministero per le Infrastrutture, quindi ci sarà la procedura di gara. L'avvio dei lavori è previsto nel 2026. Ora il meteo, cielo poco nuvoloso sulla zona montana, nuvoloso su pianura e costa, le temperature delle 11 a Trieste e a Udine 8 gradi, a Gorizia e Pordenone 7,5, a Tarvisio e Tolmezzo 6 gradi, a Forni di Sopra 5,5, a Sappada 2 gradi e 5 decimi, sul Piancavallo 1 grado e mezzo, su Lussari e Zoncolan 0, sulla costa Grado 7 gradi, Lignano 6. Le previsioni a cura dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per oggi: cielo poco nuvoloso sulla zona montana e sul settore occidentale, in prevalenza nuvoloso a sud-est. Ora la musica. Ieri sera al Verdi di Trieste la prima del Trittico di Giacomo Puccini, una nuova produzione del teatro triestino ispirata completamente alla commedia di Dante Alighieri, con un ampio uso di luci e proiezioni nell'allestimento. Ottima prova del cast e dei complessi del Verdi per una serata coronata da un successo pieno. La chiatta sulla Senna del Tabarro, come la barca infernale di Caronte, il giardino del monastero di Suor Angelica che diventa la spiaggia del Purgatorio, il letto di Gianni Schicchi spostato nella bolgia dei truffatori, con Firenze che alla fine viene investita dalle dilatate falde della pioggia di fuoco che punisce i violenti. Ambientazione dantesca a 360 gradi, quella inventata da Pier Francesco Maestrini per il Trittico di Puccini andato in scena al Verdi, un'idea che ricalca quella originale della autore e che è un modo che abbiamo trovato convincente di unificare i tre atti unici, tre vicende che più diverse non potrebbero essere: una tragedia della gelosia nei sobborghi di Parigi, il dramma di una nobile fanciulla traviata in un monastero del 600 e appunto una grottesca truffa testamentaria nella Firenze del tardo Medioevo. A sottolineare i diversi momenti dei tre drammi, le luci e le proiezioni di sfondo. Sei tu, sei tu. Sul piano musicale, serata senza sbavature, a partire da Roman Burdenko, protagonista di 2 opere su 3, con voce bella, potente e precisa, e da Anastasia Bartoli, commovente suora angelica. Splendida la prova dei complessi del Verdi, diretti da Francesco Ivan Ciampa, attento a mettere in luce tutte le finezze messe in campo da quel fenomeno dell'orchestrazione che fu Giacomo Puccini, che riserva le perle melodiche più preziose all'opera conclusiva, come l'aria di Lauretta, affidata a Sara Cortolezzis, bravissima e premiata dal pubblico come tutti gli altri numerosissimi protagonisti della compagnia. Trieste, Andrea Bardanica, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora spettacoli, a che ora viene il tuo amante stasera? Lo spettacolo di improvvisazione teatrale con Tiziano Storti, Marianna Valentino e Diego Martone, in debutto a Trieste, al Teatro Parrocchiale di Roiano, di Via dei Moreri, alle 20:30. Nel locale jazz, il Carso in Corso di Monfalcone, in collaborazione con Estensioni Jazz, alle 21, appuntamento con il Luca Dell'Anna Trio. L'associazione Parole Contro Vento propone la musica dei Pineapple Thunder Dream nell'ambito della rassegna musicale Eclissi Sonore a Trieste in via Vecellio alle 21. A San Vito al Tagliamento, concerto di Faccia Nuvola, musicista che unisce il cantautorato all'elettronica, dopo di lui spazio a mainstream, una festa indie, il party che celebra questi anni d'oro per la musica indie pop italiana alle 21 al circolo Arcicral. La compagnia Cantagallo presenterà la commedia brillante Io Tuo a Remanzacco, l'auditorium comunale, alle 20:45. E per teatralmente a corde nostre Tabetta Teatro propone la compagnia Briciole d'Arte di Cervignano in Notti d'Oriente. Ancora altri appuntamenti, Don Lelio Grappasonno, sacerdote ed eccellente pianista e compositore, il primo ospite di Spremuti come limoni, il nuovo evento creato dall'associazione musicale Gabriel Fauré. Grappasonno converserà con il direttore Emanuele Lachin a Pordenone, nel salotto del Largo Cervignano Concert Hall, in Largo Cervignano, alle 21. Per la forza delle parole a Lungis di Socchieve alle 17:30, Trattoria al Cervo, il filo delle parole, in collaborazione con il comitato Gianfrancesco da Tolmezzo, con artisti di generazioni diverse come Luca Dorotea Dorogiat, Andrea Dec De Candido e Cesa, Claudio Banelli e Nicolas Gomez. Passiamo allo sport con il calcio. La vittoria di ieri sera dell'Udinese a Lecce nell'anticipo della 26esima giornata di Serie A, con i 3 punti arrivati grazie alla trasformazione di Lucca, che per tirare si è messo contro praticamente a tutta la squadra bianconera. Questione di gerarchie in questo caso non rispettate. Succede tutto tra il 27esimo e il 32esimo del primo tempo. Gabigian allarga in aria il braccio sul volto di Lovric, l'arbitro Bonaccina lascia correre ma interviene il VAR, è rigore. Prende in mano il pallone Lucca, deciso a battere, si crea un capannello di maglie bianconere e monta la discussione. Il rigorista designato è Toven, ma Lucca non si arrende, viene ammonito per la perdita di tempo, batte il rigore e segna, ma nessuno va ad esultare con lui. 8 minuti dopo viene sostituito. Nel post partita mister Runjajić chiarisce: i giocatori discutono spesso per un calcio piazzato, noi però abbiamo una chiara gerarchia per quanto riguarda i calci di rigore e il primo rigorista è Toven, il nostro capitano. C'è stata una discussione e Lucca non ha rispettato questa gerarchia. Per il resto è stato un match equilibrato anche dal numero delle occasioni. L'Udinese si è resa pericolosa subito al 5° con l'assist di Lovric per Lucca, il suo diagonale viene intercettato prima da Falcone, la ribattuta di Camara invece va a sbattere su Baschirotto. Prima occasione del Lecce al 25esimo, cross dalla bandierina, palla deviata, la raccoglie Pierotti che ci prova per ben 2 volte. La seconda è più un tiro cross deviato da Christensen. A sostituire Lucca dopo l'episodio del rigore è Iker Bravo, subito protagonista nel secondo tempo. Al 52esimo impesserisce Falcone da lontano. Al 56esimo sussulto del Lecce con Krstić che è in corna di testa, ma Sava è pronto. L'ultima occasione è per i friulani con il pericoloso cross di Lovric mancato da E che Mellenkamp. 1-0 il risultato finale, seconda vittoria dell'Udinese che si mantiene al decimo posto a quota 36. Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia. Ma sentiamo le parole di mister Rugnaić a proposito del comportamento di Luca. It can happen in soccer. So it's not the first time that players are fighting for a penalty or for a free kick. Nel calcio può succedere, non è la prima volta che i giocatori si mettono a litigare per un rigore o per un calcio piazzato. Noi però abbiamo una chiara gerarchia per quanto riguarda i calci di rigore e il primo rigorista è Toven, il nostro capitano. C'è stata una discussione e Luca non ha rispettato questa gerarchia. I like how he scored the penalty. We won over this penalty and I made the decision because ha battuto un gran rigore e grazie a questo rigore abbiamo vinto, ma ho deciso di sostituirlo perché chi non segue le regole in momenti come questi non dimostra rispetto all'intera squadra. Noi siamo una squadra e ciò che abbiamo conquistato fino adesso, i 36 punti, è dovuto alla prestazione dell'intera squadra e nessun singolo è più importante della squadra. Sono cose che succedono, io sono molto chiaro e molto calmo, ne parleremo tra noi, ma per me non è una cosa così importante. In Serie C la Triestina ospiterà tra poco alle 15 allo Stadio Rocco l'Alcione Milano per un match che potrà aiutare l'Unione ad allontanarsi ancora dalla fascia bassa della classifica. Basket in A2 Cividale ospita al Palagesteco Verona, palla 2 alle 20, sempre in A2 Udine gioca domani al Carnera alle 18 contro Piacenza, ferma invece la massima serie per lasciare spazio alle Final Four di Coppa Italia. Pallanuoto nella sesta giornata di ritorno del campionato di Serie 1 maschile, la squadra labardata affronterà in trasferta Brescia, si gioca alle 18. E andiamo avanti con il giornale radio con due appuntamenti che riguardano presentazioni di libri per il ciclo L'autore si racconta alle 17 alla Casa delle Donne di Udine in via Pradamano. Il gruppo Anna Akhmatova presenta La guerra di Lia di Silvia Ganzitti. Nella sede del Circolo Libertario Emiliano Zapata di Pordenone si presenta il libro La rivoluzione sconosciuta, il movimento anarchico nelle lotte per l'emancipazione sociale in Russia, con Enzo Papa, traduttore e curatore dell'edizione italiana del libro di Eichenbaum, detto Volin, alle 17.45. Si intitola Lupo al lupo, la convivenza tra favole, economia e zoologia, il nuovo appuntamento della rassegna Passeggiando si impara, le conferenze in natura dei musei scientifici di Trieste, appuntamento che prevede una passeggiata tra i sentieri dove gli ultimi lupi carsici vennero sterminati e dove i primi hanno fatto ritorno creando problemi di convivenza con gli allevatori. Ritrova Basovizza, dove inizia il sentiero Ressel, al posteggio di via Kosovel, alle 14.45. L'incontro sarà condotto da Nicola Bressi, naturalista e zoologo al Museo Civico di Storia Naturale di Trieste, a cui abbiamo chiesto una sintesi della sua esposizione. La convivenza tra uomini e lupi è una convivenza sicuramente non facile, soprattutto per quanto riguarda le attività economiche, soprattutto per quanto riguarda le attività pastorali. È chiaro che allevare animali con i lupi o senza i lupi non può più essere lo stesso e non ha gli stessi costi. Costi che non possono ricadere solamente sull'allevatore, ma devono essere divisi da tutta quanta la società, questo qui è chiaro. E ci deve essere un approccio anche pragmatico, tenendo presente che i lupi non sono tutti uguali, ci sono dei lupi che possono specializzarsi in alcune predazioni e diventare più problematici. Al momento noi non abbiamo predazioni sull'uomo, però abbiamo avuto due casi in Italia negli anni recenti di morsi di lupi a persone in centro Italia e quindi dobbiamo anche stare attenti soprattutto a non abituare i lupi ad avvicinarsi ai centri abitati. E sta la buona volontà nell'attenzione di tutti far questo, mai alimentarli e nel caso fargli prendere paura, perché ricordiamoci che il lupo ha istintivamente paura dell'uomo e deve continuare ad avere paura, non può essere diventare un animale confidente che frequenti i nostri centri abitati. Quindi bastoni, urla, eccetera, una normale scacciacani servono per farli tenere la debita distanza che favorisce la convivenza pacifica con i lupi. Sicuramente le recinzioni non bastano, servono anche i cani da guardiania e dei cani che devono essere correttamente addestrati. L'accoppiata recinzioni ben fatte cani da guardiania è una coppiata che in genere garantisce una buona protezione da parte delle predazioni del lupo. Ora le rubriche della TGR, domani dopo il giornale radio della domenica, Vita nei Campi, sentiamo. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura tre progetti innovativi di acquacoltura targati Università di Udine. A seguire la ricetta dei chiarsons, la leggenda vuole che sia stata portata agli uomini da un folletto. Suggerimenti per la gestione dei sottofila di fruttiferi e vite nelle zone siccitose. Prima puntata dedicata al ruolo del pomodoro nella storia dell'orticoltura. E ancora il lavoro in cantina per il controllo tecnologico dell'attività dei microorganismi alteranti, flora e fauna nella foresta del Monte Rest per la rubrica degli alberi e in conclusione andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo e il proverbio friulano della settimana. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. E domani sulla terza rete televisiva Rai alle 11.05, sul primo canale radiofonico Rai alle 6.05 sarà trasmessa una nuova puntata della rubrica Est-Ovest. L'attentato jihadista di Villaco, in cui è stato ucciso un adolescente, inasprisce l'incertezza politica in Austria. Donald Trump e Vladimir Putin, l'abbozzo di una tregua da imporre agli ucraini senza l'Unione Europea. A Cipro, divisa tra turchi e greci, la storia di due amici separati da una guerra e da un confine. Dopo una vita di lavoro in Italia, le difficoltà e le speranze delle badanti romene che ritornano in patria. Un documentario racconta la tragedia di Zenica, città industriale della Bosnia, avvelenata dall'inquinamento. Tutto questo a Est-Ovest, domenica alle 11.05 su Rai 3. In regia Marco Ferrito, Carlo Morello e Pasquale Nocera. In redazione ha collaborato Samantha Gonda, Maria Spezia e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.